bisogna essere quello che il tempo richiede. Non chiamarsi fuori, con le parole non cambi le cose. E comunque se si può dire, anche quelle sai ho finite ormai. Ad avvolgerci.